Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani e benvenuti a Salva Danaio. Sì, adesso andiamo sui mercati subito a vedere qual è la situazione in questo momento, perché così ad occhio e croce, dopo una partenza un po' più tranquilla, almeno ci sembrava, si preannuncia un'altra giornata non proprio brillante per i listini europei. Però non è questo il tema di cui parleremo. Concluderemo sui mercati la nostra trasmissione, la nostra settimana domani, con gli amici del Sole 24 Ore, i colleghi di Plus 24 del Sole 24 Ore, che peraltro, per chi lo avesse notato, in questo periodo sono particolarmente impegnati su una nuova iniziativa editoriale del Sole, che è Tutto Risparmio, ogni giorno delle pagine dedicate all'ABC della finanza, proprio per aiutare anche i piccoli risparmiatori ad orientarsi in questa fase di mercato piuttosto complessa. Oggi torniamo come tema di approfondimento per Salva Danaio su un tema che è il must dell'estate. Vi è mai capitata la simpatica situazione della rottura della caldaia del gas il giorno di Ferragosto? Vi è mai capitato di rimanere chiusi fuori casa sempre in questo periodo perché avete lasciato da qualche parte le chiavi e dovete autoscassinarvi la porta appunto della vostra abitazione? Vi è mai capitato che invece la lavatrice decida la settimana di Ferragosto di lasciarvi al vostro destino con una montagna di vestiti da lavare? Chi è incappato in queste disavventure domestiche in pieno agosto, quando quasi praticamente tutto il mondo è in vacanza? Sa bene che una telefonata d'emergenza ad un fabbro, ad un idraulico, ad un elettricista in questo periodo può devastare il portafoglio, soprattutto se si ha la sfortuna di chiamare il primo numero di telefono che capita a tiro e se si ha la sfortuna di imbattersi appunto nel malandrino della situazione, nel disonesto della situazione, o quantomeno in un professionista appunto non del tutto capace anche di gestire al meglio questo rapporto con un cliente, diciamola pure così, in maniera un po' edulcorata. Nessuno naturalmente contesta il fatto che l'uscita d'emergenza il giorno di Ferragosto non debba essere appunto remunerata adeguatamente, ci mancherebbe, tutto però crediamo deve essere anche ricondotto nei limiti del buonsenso. Allora, consapevoli di tutto questo, le associazioni di categoria degli artigiani da anni attivano in questo periodo una iniziativa molto valida che noi puntualmente segnaliamo ai nostri ascoltatori, ai nostri amici che ci seguono da casa, perché molte città italiane si organizzano e diffondono pubblicamente una lista di professionisti aperti tutto il mese che possono essere chiamati senza per questo rischiare il tracollo del portafoglio. E magari, siccome spesso al danno si aggiunge la beffa, magari non solo questi professionisti appunto chiedono delle cifre improponibili, ci tamponano l'emergenza, ma lo fanno magari anche con un lavoro di scarsa qualità. Allora, quali sono i suggerimenti anche per affrontare queste situazioni? Stamattina abbiamo interpellato Vittorio Tonini, vice segretario di APA, Artigianato e Piccole Aziende, Confartigianato e Imprese di Monza, di Milano, Monza e Brianza. Tonini, buongiorno, benvenuto alla nostra trasmissione. Buongiorno a voi, buongiorno. E poi ringrazio, invece andiamo nella capitale, Antonio Fainella, responsabile sindacale CNA Roma. Fainella, buongiorno, benvenuta anche a lei. Buongiorno. Allora, io ovviamente, come abbiamo già fatto nelle altre occasioni in cui ci siamo dedicati a questo argomento, invito i nostri ascoltatori a raccontarci la loro esperienza ferragostana. Qualcuno, io mi auguro che a molti pochi di voi siano capitate queste situazioni, ma magari peraltro non è proprio detto che poi si verifichino d'estate, basta anche la banale domenica nel corso degli altri periodi dell'anno a far appunto manifestare situazioni di questo tipo. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre testimonianze, le vostre domande, anche se vorrete, oppure scriveteci al 349 238 6666 o al nostro indirizzo, l'indirizzo della nostra posta, della posta della nostra trasmissione, salvadanaio@radio24.it. La borsa è di nuovo di malumore. Ieri giornata molto difficile per, torniamo a ribadire le stesse motivazioni, lo stallo al congresso americano. Tra repubblicani e democratici non si riesce a trovare un accordo per l'innalzamento del tetto del debito e si avvicina sempre di più il termine del 2 agosto, anche se pare poi che l'amministrazione Obama abbia in cassa risorse per poter eventualmente gestire la situazione fino al 10 agosto, quindi prima situazione di tensione questa. Ancora il mercato non crede bene a come si potrà muovere il piano concordato a Bruxelles la settimana scorsa per il salvataggio greco e per eventualmente scongiurare un rischio domino della crisi degli stati sovrani fra gli altri paesi dell'Eurozona. Quindi c'è molta incertezza su questo. Le agenzie di rating che continuano ad esprimere bocciature su bocciature, facendole piovere sul mercato in ogni momento. Ieri sera nuovo intervento di Standard & Poor's sulla Grecia, stamattina Fitch ha espresso la sua idea su quello che intende fare nel suo giudizio sul Portogallo e stamattina borse di nuovo depresse. Sentite cosa è successo a Piazza Affari, è partita con un ribasso di 1,5 punti, ha recuperato tutto, è andata in territorio positivo, guadagnava un paio d'ore fa lo 0,3, lo 0,4%, adesso perde di nuovo 2 punti e le fanno buona compagnia le altre piazze: Parigi meno 1,58, Francoforte meno 1,85, Londra meno 0,71. Si torna a deprimere anche l'euro. Sul dollaro ieri valeva oltre 1,45, adesso è 1,42,73. Questo appunto proprio perché è l'area euro stamattina ad essere in tensione. Titoli di Stato, le aste del Tesoro stamattina l'avete sentito nel giornale radio, ci sono state delle aste di BTP triennali e decennali che hanno raggiunto, come richiesta del mercato, a tassi di rendimento rispettivamente del 4,80% per il BTP scadenza triennale, il massimo da luglio 2008. Il titolo decennale ha dovuto riconoscere un rendimento del 5,77% al massimo dal 2000. Le aste sono andate bene, la domanda è stata piuttosto forte, però gli investitori hanno detto: io al Tesoro italiano te li compro, ma mi devi dare questo riconoscimento. E intanto lo spread fra il BTP e il Bund, quindi il nostro titolo decennale, questo tedesco e quello tedesco, è salito a 330 punti. L'ultima storia di borsa la racconto, comunque stanno tornando a scendere le banche un'altra volta, stamattina recuperavano e adesso stanno riazzerando i guadagni e riperdendo molto terreno, però il caso del giorno è rappresentato da Finmeccanica che dopo i conti deludenti di ieri e la revisione delle stime sul 2011 cede il 14,85%, Tenaris meno 7, penalizzata dai conti della francese Vallourec, insomma il mercato tutte le scuse possibili ed immaginabili per vendere le trova in ogni momento. Il Banco Popolare è il peggior titolo bancario del momento e scende del 4,35. Prendiamoci un po' di pausa dalla borsa, parliamo invece adesso degli imprevisti domestici e di agosto e di quanto ci costa pagarli per risolverli. Un rubinetto che perde o il condizionatore che fa capricci, l'impianto elettrico che funziona a singhiozzo o una serratura bloccata. Sono piccoli incidenti di ordinaria amministrazione che possono però diventare veri problemi se accadono in periodi di vacanza, magari ad agosto, quando le città si svuotano e trovare un idraulico, un fabbro o un elettrauto è sempre più difficile, soprattutto se a buon mercato. È l'estate, agosto in particolare, il periodo in cui purtroppo si concentra il maggior numero di truffe, in particolare a danno delle persone anziane che non hanno abbandonato la città. E così ci si ritrova a dover pagare diverse centinaia di euro soltanto per la sostituzione di un tubo o di una serratura. Ma che cosa bisogna fare in casi come questi, quando ci si trova davanti a richieste economiche esagerate? Innanzitutto è sempre bene richiedere il preventivo prima della prestazione. Se il prezzo è esagerato, bisogna contattare l'associazione di riferimento della categoria in questione e segnalare l'accaduto. In ogni caso, se la riparazione non può essere rimandata, bisogna sempre tenere la ricevuta. Inutile invece intavolare trattative sul prezzo. Per limitare episodi di questo tipo è possibile, ad esempio, rivolgersi direttamente alle associazioni di categoria per sapere se l'attività che abbiamo contattato per una riparazione è iscritta all'albo e per sapere se è adeguata o meno. 800 24 00 24, chiamateci, raccontateci la vostra esperienza al nostro numero verde, o se avete invece bisogno di suggerimenti di altro tipo lo stesso potete farlo interpellandoci. Potete anche scriverci al 349 238 6666 oppure salvadanaio@radio24.it. Cominciamo con la capitale, con Roma. Antonio Fainella, responsabile sindacale della CNA della capitale. E allora voi lo abbiamo raccontato anche negli altri anni, appunto siete così promotori di questa iniziativa grazie alla quale individuate o chiedete la disponibilità ad alcuni artigiani in questo periodo di mantenersi operativi in modo tale da supportare i cittadini in caso di bisogno, soprattutto a prezzi ragionevoli. Che riscontro hanno queste iniziative? Tra l'altro ho visto sul vostro sito che c'è anche la possibilità, qualora un artigiano non si fosse accorto, un fabbro, un elettricista, un idraulico di questa iniziativa, di darvi ancora la sua adesione all'iniziativa qualora fosse disponibile per il mese di agosto, avesse deciso di lavorare e non andare in vacanza. Fainella, sì. Buongiorno. È possibile ancora, come dire, far parte di questo elenco che noi ogni anno pubblichiamo insieme al Comune di Roma, quindi viene pubblicato sia sul sito della CNA di Roma, cnapmi.org, sia sul sito del Comune di Roma? È ancora possibile iscriversi? Noi tra l'altro presenteremo, come facciamo tutti gli anni, il 3 agosto con l'assessore all'attività produttive Bordoni, questa iniziativa, che è appunto un'iniziativa per affrontare, per dare un po' di serenità ai cittadini e affrontare tutte queste problematiche che possono sorgere in momenti difficili, soprattutto in una grande città come Roma. Cosa garantisce essenzialmente questo elenco? Garantisce innanzitutto che si tratta di un'impresa soprattutto per il campo elettrico, idraulico e automobilistico, un'impresa qualificata, quindi non solo iscritta all'albo delle imprese, ma un'impresa qualificata, quindi che possiede tutti i requisiti e quindi che dà garanzie del proprio operato. L'altro è il prezzo. Che è il prezzo che normalmente viene, che diciamo effettuato. È un po' più l'oggetto della discordia, poi più che altro, no? Sì, queste imprese sono impegnate a garantire quello che è il prezzo normale di un intervento con una piccola certo, ma maggiorazione ferragostana, maggiorazione giusta, dovuta, ovviamente dovuta al periodo, ma che comunque che sono prezzi ampiamente chiari, parliamo di 80-90 euro per questi un po' che sono gli interventi più richiesti, per la sostituzione di un flessibile, per una 70-80 euro per la caldaia magari che non funziona, o un centinaio di euro per la perdita del tubo del gas, o un centinaio di euro per un intervento sul condizionamento, o un altro. Insomma, gli incidenti o le disavventure domestiche che possono più comunemente capitare in questo periodo. Comunque siamo intorno a interventi sui dagli 80 ai 100, ai 150 euro, salvo che poi non si tratti, come dire, di un intervento per esempio un po' più complesso, di una sola serratura derivante da scasso, e lì insomma il prezzo può essere notevolmente superiore, ma che sono normalmente i normali prezzi di mercato. Fainella, per dare un'altra informazione di servizio, l'iniziativa della quale stiamo parlando, Artigiani e non solo, aperti ad agosto, riguarda solo la città di Roma o tutta la provincia? Riguarda solo la città di Roma, riguarda. Oh, tra l'altro da quest'anno è possibile anche scaricarsi l'app, chi ha uno smartphone o con un sistema iPhone o un sistema Android può scaricarsi l'app dal Market o da iTunes CN a Roma. C'è un software in cui è possibile trovare tutte le imprese che sono. Infatti, anche perché stavo pensando, il signore che rimane chiuso fuori casa e deve scassinare la porta per entrare, magari ha bisogno veramente dell'intervento di emergenza, il telefono magari lo lascia dentro, il computer è dentro, esatto, trova lì subito. Se ha uno smartphone lo può fare direttamente al telefonino, ma sul Market digita CN a Roma, si scarica l'app e lì trova tutte le aziende che sono disponibili. Infatti, allora abbiamo detto che queste iniziative strutturate riguardano Roma, riguardano, adesso ne parleremo anche con Tonini, nel Milano, la provincia di Monza e Brianza. Chiaramente poi ci serviranno anche dei suggerimenti per tutti quei cittadini che invece non hanno l'opportunità di osservare o di avere, non hanno la disponibilità di iniziative appunto organizzate come queste, ma sono sicura appunto che le associazioni di categoria in qualche maniera, in altro modo, si sono strutturate per fronteggiare questa fase. Guardavo Vittorio Tonini, vice segretario di APA Artigianato e Piccole Aziende della Confartigianato Imprese di Milano, Monza e Brianza, che le aziende aperte nel mese di agosto, perché voi avete pubblicato la lista sul vostro sito, io me la sono stampata, anche se non rimango qua a Milano nelle prossime settimane, ho visto anche che avete un bel gruppo di estetiste, così le nostre ascoltatrici di questa zona, qualora avessero bisogno di una depilazione in emergenza, possono fruire anche di un servizio di questo tipo. Quindi voglio dire, come dire, le esigenze possono essere di diverso tipo. Di diverso tipo, è proprio così. Quarta edizione di Aperti per Ferie, su due fronti, tutta la provincia di Monza e Brianza, con i quattro comuni più significativi a partire dal capoluogo di Monza, oltre che Vimercate, Seregno e Lissone, e la città di Milano, per quanto riguarda appunto questo tipo di servizio che noi abbiamo sempre considerato di massima utilità anche dal punto di vista sociale, come si diceva prima. Abbiamo iniziato appunto coinvolgendo gli artigiani, quelli più direttamente coinvolti per le cosiddette emergenze di casa, per cui l'elettricista, l'idraulico, piuttosto che nel fabbro. L'anno scorso abbiamo allargato questa presenza e ha avuto un grande successo, ad esempio nelle officine di autoriparazione, infatti, carrozzerie, anche perché anche quello, ahimè, può essere un problema nel mese di agosto trovarne aperte qualcuno, ma soprattutto poi dirò qualcosa anche sulla questione dei prezzi. E quest'anno la novità è proprio quella che ricordava prima, abbiamo detto, beh, insomma, se qualcuno ha intenzione di farsi una messa in piega o di andare all'estetista, cominciamo a dire chi sono quelle attività aperte che garantiranno questo tipo di servizio. Certo, perché chi rimane a Milano per lavorare tutto il mese di agosto non è detto, soprattutto una ragazza, che non debba continuare a farsi bella e quindi ha tutto il diritto. Oggi parliamo di imprevisti domestici in pieno agosto, la lavatrice che si rompe, un tubo che si rompe, la caldaia del gas che ci abbandona improvvisamente il giorno di Ferragosto, o il giorno prima o il giorno dopo. Insomma, chi incappa in queste disavventure domestiche in pieno agosto sa che la telefonata d'emergenza al fabbro, all'idraulico, all'elettricista può costare cara, ma in realtà se ci si prepara anche mentalmente un po' a queste eventualità, si può cercare di individuare una soluzione a queste emergenze in tempi con un certo anticipo, in sostanza, intanto perché conoscendo l'attività delle organizzazioni di categoria, soprattutto sulle grandi città, si può venire a conoscenza di queste iniziative strutturate, appunto, che individuano una serie di professionisti sul posto che sono aperti per tutto il mese di agosto e soprattutto garantiscono la gestione e la risoluzione di queste emergenze a prezzi assolutamente ragionevoli. Se poi magari sul proprio territorio, sulla propria città, nella propria città non ci sono iniziative di questo tipo, magari si può chiedere un suggerimento all'elettricista o all'idraulico di fiducia, quello che ci viene a risolvere i problemi nel corso dell'anno, e magari si può da lui farsi lasciare appunto nome di un altro collega di fiducia. Le soluzioni ci sono, l'importante è, ecco, effettivamente pensarci un po' prima, anche se non è poi facile, per scaramanzia chi mai va a pensare che la lavatrice si rompa proprio il 12, il 13, il 14 agosto, però queste cose possono capitare. Sentiamo allora come hanno risolto alcuni ascoltatori, poi commenteremo questi casi con i nostri ospiti di questa mattina. Abbiamo due rappresentanti, uno della Confartigianato, uno della CNA. Sentiamo intanto sì Patrizio da Verona, a cui avevo promesso di intervenire appena rientrati dalla pausa. Patrizio, buongiorno. Buongiorno. Ci dica tutto. Niente, io ho un'impresa idraulica qua a Verona e posso dire un po' a difesa dei installatori, che non tutti sono quelli che vengono fuori e chiedono i 200-300, anzi noi chiediamo le tariffe uguali come il resto dell'anno. E direi di più, che quando incontriamo qualche anziano, dove giriamo sempre per le case, per le famiglie, abbiamo un certo rispetto e cerchiamo anche di trattarli ancora meglio se possibile. Ma infatti, Patrizio, vediamo che ce n'hanno un bisogno, se ne ha un certo bisogno. E un'altra cosa che volevo dire, telefonare anche alle associazioni, il resto è difficile perché diventa tutto più complicato. Bisogna fidarsi di qualcuno magari che si conosce, e non tutti siamo di quella risma. No, ma ci mancherebbe, Patrizio, quello che stiamo ribadendo questa mattina. L'unica cosa, ecco, è che siccome poi soprattutto, come lei giustamente ricordava, sono gli anziani che rimangono più vittima di queste situazioni, è cercare di così dare anche a loro qualche suggerimento su come proteggersi da eventuali situazioni di questo tipo. Però ci mancherebbe, Patrizio, guardi, anzi lo stavamo dicendo anche con il mio tecnico proprio poco fa a microfoni spenti, mi diceva che questa situazione di crisi magari sta portando molti professionisti a rimanere a casa nel mese di agosto e forse ad approfittare anche di questo mese per gestire le emergenze, magari si guadagna un po' di quanto si è perso nel corso degli altri mesi. Questo è un altro tema e sono assolutamente convinta che la maggior parte di voi professionisti appunto sia composta da personalità e professionalità assolutamente serie, però purtroppo la disavventura capita, come quella che è successa per esempio a Alfredo da Milano. Forse non tanto la disavventura col professionista, qui il tema è stato un altro. Alfredo, buongiorno. Sì, buongiorno. Dunque, io non ho fatto un intervento di emergenza per una porta blindata bloccata. Diciamo che non ho contestato il costo della manodopera, perché mi sono presentato come responsabile di un gruppo di manutentori, quindi il personaggio intervenuto, no, è vero. Li ha messi subito sull'attenti, non tentate di fregare me perché io ne so più di voi, però vabbè. Bravissima, quindi la manodopera, il costo della manodopera è stato abbastanza, direi, regolare, salvo che poi ci sono rifatti, ma ampiamente rifatti, sul costo del tetto. sostituiti. Ah, cioè lei dice che comunque le hanno caricato un sovrapprezzo sui pezzi sostituiti? Mi sono interessato effettivamente del costo reale di un pezzo acquistato da qualsiasi ferramenta, direi che ne avrei presi 2,5. Ah, bene. Alfredo, ci dispiace. Sì. No, a questo punto però da una cosa negativa vorrei sempre portarla a positiva. Direi che abbiamo tanti mezzi per evitare questi disguidi. Uno fra tutti è l'amministratore. Tutte queste associazioni che si propongono ai privati probabilmente perdono di efficacia perché vanno ad una moltiplicità, si presentano a tanti. Cioè l'amministratore di che cosa? Per esempio di condominio, Alfredo, se si abita. Certo, amministratore di condominio, sì, certo. Scusa la precisazione. L'amministratore di condominio ha in bacheca un elenco di professionisti, sì. Manca quasi sempre l'elenco di un professionista o di una società, di un'associazione che interviene per emergenza, che poi è quella che pesa, perché l'idraulico l'abbiamo tutti per fare un'imparazione. Quindi la mia proposta è, van bene queste organizzazioni, va bene tutto, va bene metterci sul web, fate anche una promozione presso i vostri amministratori. Il vostro amministratore, perché è la via più facile anche per noi per accedere a un punto di servizio in caso di emergenza. Alfredo, la ringrazio molto per il suo suggerimento e tra l'altro mi ha fatto ricordare che per esempio nell'ingresso della mia abitazione io in bacheca noto che invece ad agosto il mio amministratore del condominio l'elenco delle eventuali professionalità a disposizione per le emergenze lo mette, visto? Potevo anche dare da subito questa indicazione, però siccome non tutti abitiamo in condominio, c'è chi abita in abitazioni appunto in case singole, quindi in villette piuttosto che appartamenti di altro tipo, quindi magari non tutti possono, sicuramente nelle grandi città questo è possibile. Ritorniamo ai nostri interlocutori. Fainella, CNA Roma. Ha sentito il caso dell'ascoltatore che dice: ma guardi, mi ero quasi sorpreso della manodopera che costava in termini ragionevoli, poi tra ho trovato invece la sorpresa dietro l'angolo, ha ricaricato un po' troppo i prezzi dei pezzi di ricambio. Sì, cose che accadono, che purtroppo accadono, ma che non riguarda, come dire, i nostri imprenditori che si sono resi disponibili durante il mese di agosto, perché loro garantiscono, come ci ha detto l'altro imprenditore molto correttamente, garantiscono il costo della sostituzione anche del pezzo a quello che è il normale prezzo e costo di mercato. E quindi, come dire, interessantissima questa idea degli amministratori di condominio, credo la faremo anche noi propria, nel senso contatteremo direttamente le associazioni degli amministratori di condominio in modo che si possa far partecipe di questa iniziativa presso tutti i condomini che sono, come dire, la gran parte all'interno della nostra città. Dicevamo prima, l'iniziativa di Roma è su tutta la provincia di Roma, non solo sul comune di Roma, ma riguarda tutti i comuni, ovviamente come dire, il grosso riguarda essenzialmente la città di Roma, ma si estende a tutti, e quest'anno l'abbiamo estesa anche difatti si chiama Artigiani Aperti Agosto e non solo, l'abbiamo estesa anche ai servizi tradizionali, da noi gli acconciatori, le estetiche, i barbieri c'erano già da anni, ma l'abbiamo estesa anche ai servizi, come dire, cittadini, ristoranti, bar, a tutto quello che può essere un servizio anche relativo o al tempo libero o alcune esigenze che potrebbero nascere relativamente a questa. Infatti, anche perché adesso più commerciali. Non dico che arriva un turista e gli si può rompere la lavatrice perché non se la porta certo appresso, ma magari una turista che vuole invece farsi i capelli e sistemarsi un po', quindi ecco, magari ha bisogno di un altro tipo di professionalità che può essere un po' più difficile da reperire appunto nel bel mezzo della settimana di Ferragosto. Abbiamo messo anche odontotecnici, farmacie, parasanitari, laboratori di analisi, quindi anche come dire, il mondo parasanitario. Ah, ho trovato peraltro che avete la disponibilità anche di un numero verde, credo che però questo sia per i professionisti che vogliono aderire all'iniziativa, vogliono rendersi disponibili. È l'800 016 213, per chi lo volesse, ci fosse così un meccanico piuttosto che un idraulico che non sa come spendere le sue prossime settimane, non gli è venuto in mente magari di tenere aperto rendendosi disponibile per questa iniziativa, così gli diamo anche questa informazione di servizio. Volevo ritornare un attimo a Vittorio Vittorio Tonini, invece per l'area di Milano, Monza e Brianza, per chiedergli un po' quale percezione ha quest'anno rispetto agli anni passati, se la sensazione è che più artigiani rimarranno ad agosto a Milano, non tanto per aderire all'iniziativa di rendersi disponibili per la popolazione appunto, ma perché proprio, come dire, non è aria di andare in vacanza, i tempi sono un po' duri per tutti e quindi forse è il caso di lavorare ad agosto. Qual è la sensazione che ha? Sì, è proprio così, soprattutto su Milano città, il territorio della Brianza, pur soffrendo della situazione di crisi, comunque evidenzia, soprattutto nella piccola impresa, nell'artigianato, insomma, situazioni oggettivamente di difficoltà, e il mese di agosto può essere semplicemente un momento per anche acquisire nuovi clienti, perché a fronte delle richieste che possono arrivare ai cittadini, il cliente nuovo fatto in agosto diventa anche poi la possibilità di continuare questo tipo di rapporto. Io volevo tornare, se mi è permesso, solo sul tema dei prezzi, di quell'esperienza. Aspetti, sa che cosa? La faccio commentare raccontandole quello che è successo ad una milanese, Caterina, che ci scrive: il 16 agosto del 2006 a Milano sono stata scippata in metropolitana. Ecco, uno, e già questo ci mette un po' in tensione. Ho voluto cambiare la serratura della porta blindata perché nella borsa c'erano le chiavi di casa, ovviamente i documenti, per cui chiaramente il ladro, facendo 2+2, poteva... Ecco. Allora, la sostituzione della serratura mi è costata 500 euro con fattura, per fortuna, perché quello, ecco, poi magari è un altro aspetto che affrontiamo. Come le sembra questo prezzo? No, il prezzo è decisamente fuori mercato, primo. Secondo, di fronte a un'emergenza, questa è la classica emergenza di agosto, molto probabilmente questa persona ha dovuto, come dire, rivolgersi al primo che le è capitato. E proprio per questo volevo sottolineare, l'abbiamo anche evidenziato ed è stato condiviso, e questo è importante, dai nostri artigiani, e cioè fatevi fare sempre, o chiedete comunque sempre, il preventivo per ogni situazione che si possa determinare, soprattutto nel mese di agosto. Noi i nostri artigiani li abbiamo, come dire, convinti, e l'esperienza di questi anni ce l'ha dimostrato in maniera positiva, che loro faranno, ed è un impegno assunto da loro, preventivi gratuiti, anche telefonici, della serie, se di fronte a un piccolo problema domestico lo stesso imprenditore che non vuole approfittare della situazione, no? Tanto per capirci, può risolvere il problema via telefonica, quindi con un'assistenza e consulenza assolutamente gratuita lo può fare, e comunque i preventivi sono assolutamente gratuiti, però è lo strumento che permette di evitare di avere poi le sorprese che si hanno o sul costo della manodopera o sul pezzo di ricambio. Seconda cosa velocissima, la comunicazione e il rapporto con i cittadini, soprattutto le persone anziane, quelle che rimangono in città, eccetera, la collaborazione che ormai dura da anni con il Comune di Milano, ma in questo caso anche con tutta la provincia di Monza e Brianza e con i vari assessorati è fondamentale, nel senso che al di là dei rispettivi siti, in questo caso di APA Confartigianato, ma anche di tutti i comuni, Comune di Milano e Comuni della Brianza, oltre che aver fatto un'azione anche di comunicazione sulla stampa locale, oltre ad aver fatto l'inserimento nei cosiddetti giornali che i singoli comuni mandano a tutte le famiglie in maniera periodica, cioè sì, c'è stata una diffusione della possibilità di disporre sotto mano, di avere vicino al telefono di casa i numeri di riferimento, che possono essere sia quelli dell'associazione che direttamente quelli dei comuni, e chi ha più praticità andando direttamente nei siti, vedendo, come ha visto lei, l'elenco degli artigiani disponibili aperti per ferie e scegliendo lui stesso l'idraulico e l'elettricista che gli può essere più di aiuto. Mi interessava, comunicazione fondamentale e soprattutto preventivi. Preventivi. Allora, sul preventivo ritorniamo adesso dopo la nostra nuova pausa, quella che ci racconta cosa sta succedendo sulle strade italiane, visto che comincia il weekend da Bollino Nero, chissà che qualcuno non abbia cominciato con discreto anticipo. Il tema del preventivo è capire con quanta lucidità lo si può chiedere se il frigo ci ha mollato improvvisamente, si è sbrinato del tutto e ci ha allagato casa, così come può aver esserci allagato la casa, la lavatrice qualche volta, non siamo in condizioni di lucidità da chiedere quanto mi fai per questo lavoro, dal fare 30 telefonate, magari non 30, bastano 5, e quindi che tipo di esigenza dobbiamo manifestare al professionista al quale ci rivolgiamo. Allora, un ascoltatore mi dice emergenza di agosto, ma oggi è il 28 luglio. Sì Luca, lo so benissimo che giorno è oggi, noi stiamo parlando di tutte quelle situazioni straordinarie nelle quali ci potremo trovare prossimamente, quando molte città saranno un po' più tranquille, molte serrande saranno abbassate, però non è detto che poi la nostra lavatrice decida in un altro giorno di rompersi, così come il nostro frigo, la nostra caldaia. Se ci capita a Ferragosto, cosa facciamo, a chi ci rivolgiamo, quanto dobbiamo spendere soprattutto, e come facciamo ad essere sicuri che l'artigiano al quale ci rivolgiamo è un professionista serio che non ci vuole gabbare e spennare soprattutto. Un altro ascoltatore suggerisce un'altra cosa alla quale forse magari molti non pensano quando si trovano in tensione per situazioni del genere. Andrea dice: la copertura assistenza della polizza casa può essere d'aiuto a volte nei casi di imprevisti in giorni particolari. Queste polizze a volte prevedono degli interventi gratuiti e con solo 10 euro l'anno. Grazie Andrea per il suo suggerimento, magari andiamo anche a spulciare le polizze della casa se le abbiamo sottoscritte in concomitanza con la sottoscrizione del mutuo, e chissà che addirittura non abbiamo un'assistenza di questo tipo della quale siamo completamente all'oscuro. Fainella, responsabile sindacale CNA di Roma, ricordo ancora gli interventi per gli ascoltatori che sono possibili all'800 24 00 24. Mi si allaga la casa perché la lavatrice mi ha mollato, devo subito chiedere la disponibilità di un idraulico che mi venga a sistemare l'elettrodomestico in panne, e però chiaramente in quella situazione di emergenza chissà se ho la lucidità di fare 3 preventivi appunto per chiedere la tariffa e individuare la tariffa migliore. Come faccio ad intercettare un professionista serio, a riconoscerlo al volo in situazione d'emergenza, anche con un contatto telefonico? Ma un contatto telefonico, basta chiedere al professionista l'iscrizione all'albo delle imprese, e quindi da questo se ne deduce se è un'impresa, se è un'impresa qualificata, e quindi un'impresa che opera all'interno del mercato in maniera regolare. L'altra cosa è non farsi prendere dal panico comunque. Questo questo è il peggior rischio, quello di farsi prendere dal panico, di chiamare l'amico che passa, che magari ci dà il nominativo di un altro amico che conosce qualcuno, che poi non sappiamo se è un'impresa qualificata o meno. Quindi insomma, prima di tutto calma e sangue freddo, che ormai fanno le associazioni di categoria. Tra l'altro Roma, solo per Roma è ancora più semplice, perché basta fare lo 060606, che è il numero del Comune di Roma, il quale ha a disposizione, ha pubblicato nel suo sito, e quindi gli operatori dello 0606 possono dare direttamente l'informazione dell'imprenditore disponibile nell'area o nel municipio tramite il codice di avviamento postale. Volevo aggiungere, la sensazione che ha il collega della Confartigianato di Milano l'abbiamo pure noi. Ah sì, senso che quest'anno il numero delle imprese è aumentato. Aperte non forzatamente, se è lavori forzati. La sensibilità degli imprenditori, oppure il momento è così difficile che alcune imprese, come dire, hanno ridotto il loro periodo di vacanza, oppure hanno deciso di operare nel mese di agosto per far fronte alle difficoltà oggettive del mercato. Fainella, le faccio sentire un'altra cosa che è capitata ad un ascoltatore di Roma, così lei mi dice se corrisponde al vero, se le risulta. Raul da Roma, buongiorno. Sì, lei si buongiorno. Chiama come mio cugino, io adoro questo nome. Buongiorno. Sì, prego, prego, buongiorno. Allora io volevo dirle, il signore diceva di chiedere i preventivi. Io abito a Roma, se uno chiede i preventivi a diverse ditte, società, per il preventivo, per venire a casa, gli chiedono il diritto di chiamata a 40 euro. Quindi se uno fa due o tre preventivi, già li fregano tutto. No, ma giornata. Aspetti Raul un attimo. Allora, se io adesso magari ho 3 numeri di telefono a disposizione e mi serve l'idraulico al volo, lo chiamo e gli dico: senti, guarda, mi è capitata questa cosa, quanto mi chiedi per fare questo lavoro? Lui magari comincia la trattativa, dirà: bisogna vedere che cosa trovo, che tipo di danno c'è, eccetera, eccetera. Se si ha la percezione chiara del danno che si è verificato, si può fare una richiesta più precisa e lui può fare un preventivo preciso. Perché dice che solo per... come fa, ricevendo una telefonata, a chiedere 40 euro? No, per la telefonata no, per l'uscita. Se le devono vedere il frigo, deve venire a casa del tecnico per forza, è difficile che così telefonicamente le dica l'importo del... Infatti, lei dice insomma... Ho capito, sentiamo un po' che cosa mi dice Fainella della CNA di Roma, sì, magari è chiedo... Ovvio, questa è una classica, una tipica discussione, credo che tutti i cittadini avranno avuto con le imprese di riparazione soprattutto di elettrodomestici, nel senso che si chiede un preventivo perché il frigorifero, la lavastoviglie non funziona. Diventa difficile per l'imprenditore capire il motivo, quindi comunque il preventivo è legato a una visita presso l'abitazione relativamente all'elettrodomestico, e questo comunque comporta un costo per l'azienda, per spostarsi, poi come gli spostamenti in una grande città spesso sono mezza giornata, l'importo che si chiede, che è intorno ai 30-40 euro, è comunque un importo modesto che poi viene recuperato nel caso che il lavoro si faccia, l'intervento venga effettuato. Infatti no, la questione Raul dice se ne ho bisogno di tre. Non tanto la telefonata per dire, come dire, un guasto molto identificabile, la rottura del flessibile del lavabo mi perde, come dire, è una rottura facilmente identificabile, l'imprenditore artigiano dà una stima del costo, cosa diversa è l'intervento su un'apparecchiatura di cui non se ne conoscono e non se ne capiscono bene le motivazioni. Infatti, però insomma la perperplessità di Raul è assolutamente legittima, dice se io ho bisogno per avere il prezzo migliore di farne uscire tre per verificarmi quello che è successo e devo già sborsare 140, 130, 120 euro solamente per farglielo controllare, poi scelgo il migliore e lì risparmio, però l'ho verificato. Chi è che... Ah sì, Emanuele, questa è bella. In Francia, per una volta tanto siamo stati più bravi del resto d'Europa, visto che siamo sempre i peggiori in tutto, almeno ci dipingono così. Emanuele dice, io in Francia, serratura blindato, 800 euro, e quindi non capisco esattamente che lavoro abbia fatto, comunque ha speso un bel po' di soldi. Allora, un'altra cosa, adesso vado anche da Maris da Modena, però Vittorio Tonini, e se l'artigiano al quale ci rivolgiamo per farci un lavoro più conveniente ci dice, vabbè dai, mettiamoci d'accordo, non ti faccio la fattura, pagami in nero, che facciamo? No, niente di tutto questo, tra l'altro volevo precisare che insomma il ragionamento sui preventivi è ovviamente rapportato alla descrizione del possibile guasto avuto, ed è evidente, come ricordava il collega di CNA, che questo presuppone una visita in loco. Io volevo sottolineare che anche la visita in loco e il preventivo fatto vedendo direttamente quale può essere l'intervento al guasto, anche laddove il cliente decidesse di non fare l'intervento, i nostri associati, i nostri artigiani fanno questo servizio gratuitamente. Cioè si spostano, vanno a casa. No, ma guardi, è anche un problema di cultura, cioè dobbiamo abituare anche i cittadini. Intanto convengo sul fatto che è meglio che non si facciano prendere dal panico in situazioni particolari. E ovviamente, sapendo che ci sono in giro i malandrini e i furboni, soprattutto in questo periodo, avere quel minimo di capacità di orientarsi in maniera giusta verso quei professionisti che sono in grado di garantire qualità e professionalità degli interventi, oltre che non approfittarsi dal punto di vista dei prezzi. Quindi credo che ci debba nascere questo rapporto che, ripeto, noi abbiamo dei dati di riscontro degli anni precedenti, perché molti cittadini chiamano anche la nostra associazione. L'anno scorso sulla città di Monza abbiamo avuto 200 chiamate, perché nel mese di agosto anche i miei colleghi stanno qui a lavorare, quindi rispondono al telefono al 039 36 321, e di queste 12 chiamate 180 sono andate a buon fine, non c'è stata nessuna contestazione, nessuna lamentela. Cioè abbiamo avuto, ed è per questo motivo che anche le amministrazioni comunali, gli assessorati ai servizi sociali hanno visto positivamente questa cosa. Certo, è un gruppo di artigiani che si mette a disposizione, ed è chiaro che se uno va a beccare quello non molto corretto, soprattutto in questo periodo, il rischio che vada a incappare in situazioni pericolose ci sono. Però bisogna bisogna farla questa azione di cultura verso i cittadini, e noi dobbiamo assolutamente metterli in condizione di poter evitare di avere brutte sorprese. Quindi lei mi sta dicendo che per l'iniziativa Monza e Brianza, aziende aperte nel mese di agosto 2011, se io ho bisogno di un preventivo per sapere quanto mi costa l'aggiustamento della lavatrice, mi stai chiudendo un minuto prima, Roberto? Sì, guarda, sta andando già la sigla. Per l'uscita, i vostri artigiani l'uscita si spostano. Non è prevista. L'uscita di tutto il circondario costo zero. Cioè, facciamo proprio un'azione, guarda, davvero. No, ma io me ne rendo merito, per carità del cielo, però voglio che passi chiaramente questo messaggio. Poi è vero che nella grande città, Milano, fa storia a sé, come la fa Roma, è evidente che probabilmente qualche leggero costo, stiamo parlando di qualche euro tra una parte e l'altra della città, è previsto, ma l'esperienza, diciamo, di Monza e Brianza, visto che è un territorio dove i comuni sono molto vicini, preventivi gratuiti, nessun costo d'uscita. Bene. Tariffe agevolate, noi le abbiamo chiamate, ma semplicemente devo chiudere Tonini. Sì. Applicate le tariffe di Camera di Commercio, che sono quelle ufficiali e quindi senza sovrapprezzi. Benissimo, andate a controllare sui siti delle associazioni di categoria prima di partire per le vacanze o prima di appunto trovarvi in queste situazioni. CNA e Confartigianato vi danno tutte le informazioni. Io ringrazio Vittorio Tonini e Antonio Fainella per essere stati con noi, grazie a Gaia Romani per la collaborazione in redazione, oggi Roberto Scaltritti, terribilissimo, in assistenza tecnica. Mi chiude velocemente la trasmissione, però noi ci risentiamo domani, buona giornata.